Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Giovedì scorso a Bologna sono stati presentati i risultati di Energia PEA. Parliamo di un progetto che appunto ha coinvolto anche l'amministrazione pubblica, la provincia di Bologna, che ha come fine l'avviamento di un percorso di riqualificazione energetica degli edifici produttivi, quindi proprio dei capannoni industriali e quant'altro. Non stiamo parlando delle linee di impianto, quelle su cui si producono i beni che produce appunto l'azienda. Si tratta di un progetto pilota che per ora ha coinvolto 10 aziende, ma che si vorrebbe poi estendere almeno come modalità ad altre imprese del territorio della provincia di Bologna, e che in ogni caso ha permesso di scattare una fotografia dello stato del settore. Ne parliamo con l'ingegnere Angelo Mingozzi, che è docente di progettazione integrale ecosostenibile all'Università di Bologna, nonché titolare dello studio di progettazione che ha effettuato questa survey. Buonasera Mingozzi. Buonasera. Allora, intanto c'è questo primo elemento di novità, dato che voi vi siete concentrati non tanto sulla core business, diciamo, dell'azienda, ma sull'edificio all'interno del quale l'azienda fa le sue attività. Perché questa scelta? Glielo domando perché non è una scelta frequente, normalmente si insiste sempre sulla parte strettamente produttiva. Ma perché attraverso la chiave energetica pensiamo di poter promuovere anche la riqualificazione, la rimessa in sicurezza e la promozione della qualità all'interno degli edifici produttivi, intesi come spazi di vita. Nei quali si passano moltissime ore della propria giornata. Certo. Certamente, sia dell'imprenditore che dei suoi collaboratori. E dove invece troviamo spesso spazi esterni ed interni di bassa qualità. Molto trascurati, certo. Molto trascurati, sì. E si capisce che anche intervenendo con utenza insediata, quindi senza interruzione di linee produttive, attraverso interventi di manutenzione ordinaria o piccoli interventi di manutenzione straordinaria, si possono raggiungere significativi miglioramenti nei consumi energetici, a fronte anche di un aumento della qualità e del comfort degli spazi di vita. Degli spazi abitativi. Qual è il quadro che è venuto fuori dall'analisi di queste prime 10 aziende? Speriamo che siano le prime. È intanto di una grande disponibilità e attenzione da parte degli imprenditori e anche dei dipendenti, che sono stati collaborativi, insomma. Sì, collaborativi, incontrati più volte, coinvolti, diciamo, nel nostro studio. Emergono fra l'altro anche risultati in termini quantitativi molto interessanti. Si raggiungono, diciamo, risparmi complessivi nella media potenzialmente vicini al 50% dei consumi per illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti di lavoro. Uh-huh. E con tempi di ritorno dell'investimento nelle proposte di interventi di riqualificazione che possono variare dai 4 ai 12 anni. Ecco. D'accordo. Le debolezze principali che avete trovato dove stanno? Nell'involucro piuttosto che negli impianti di condizionamento? Diciamo che le debolezze sono distribuite. Appare con particolare evidenza che il peso maggiore sui consumi energetici mediamente l'hanno l'impianto di condizionamento, certo, i suoi terminali e l'involucro. E lì troviamo anche i tempi di ritorno più lunghi negli interventi. D'accordo, che spesso però corrispondono alle economie più elevate nel lungo termine, questo sì, è abbastanza sì, una regola generale, no? Quando si interviene in questo senso. Economie e tempi di ritorno che potrebbero essere massimizzati se appunto nella cultura aziendale entrasse sempre di più, non solamente sulla linea produttiva ma anche sull'edificio, la cultura della manutenzione programmata. Quindi se noi dovessimo pensare alla riqualificazione di un involucro che comunque deve essere ripreso per manutenzione degli intonaci esterni, o di un tetto che comunque deve essere ripreso per il rifacimento dell'impermeabilizzazione, è chiaro che intervenendo anche con ottiche di riqualificazione energetica, i tempi di ritorno dell'investimento passerebbero dai 12-13 anni ai 2-3 anni. Cioè se c'è comunque una ristrutturazione da fare, a quel punto la differenza è minima, questo certamente, mi stai dicendo. Certamente. Senta, diciamo che queste attività, per esempio questo progetto Energia PEA, che è partito anche dalla provincia, nascono perché gli enti locali hanno necessità di contribuire, diciamo, allo sforzo nazionale per raggiungere gli obiettivi europei. Sì. Ci sono quindi delle esternalità cosiddette, cioè il fatto che per esempio si riducono le emissioni di anidride carbonica non è una roba che avvantaggia direttamente l'azienda, avvantaggia però la collettività. Ora, c'è un modo di restituire almeno parzialmente questo vantaggio per la collettività all'azienda in modo da motivarle? Certamente vi sono diverse possibilità. Misurare, diciamo, gli incentivi sulle esternalità è la modalità certamente più corretta per l'ente pubblico. Le modalità possono essere le più varie. Ecco, mi interessa molto, no, approfondire questa cosa che stava dicendo. Cioè, lei dice: più è diretto il vantaggio dell'azienda nell'operazione, meno incentivi bisogna dargli. Più invece il vantaggio è per la collettività, più incentivi bisogna dargli. Questo è il concetto. Certo, che stava... è chiaro che il tema della valutazione delle cosiddette esternalità, che è un tema complesso, ma che comunque riguarda i benefici legati alla salute del cittadino, in qualche modo il risparmio energetico comporta, sono... devono tornare alle aziende. E come si fa? Come si fa? Qualche suggerimento? Questo potrebbe essere fatto aiutando l'azienda a comunicare le sue buone pratiche, ad fornire all'azienda studi di fattibilità avanzata come quelli che abbiamo fatto, aiutare l'azienda in una semplificazione burocratica, oppure più, forse più banalmente, proporre benefici incubatura che possono anche diventare crediti che si possono fare atterrare, come si suol dire, anche in altri in luoghi altri rispetto settori. A quelli del nostro edificio produttivo. Una defiscalizzazione, certo, per insomma, esempio. Quelle cose che piacciono tanto alle imprese. Esatto. Grazie Mingozzi. Prego. Ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, parleremo di mobilità elettrica ma su due ruote. Buona serata.